stanotte vado e vengo qui con te, e poi stasera io non posso ancora non tornare stavolta, questa volta che nessuno sa. Ancora un poco, salto sopra tutti i fossi e non mi fermo mai, perché io stanotte sotto un cielo grigio sto risalendo e non vado mai lontano. Se sarai sempre vicino a me, se e forse tu non lo saprai, che tanto non mi fermerò, non mi fermerò. E se tu sarai sempre più accanto a me, e forse tu non lo saprai, che tanto non mi fermerò.